before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Nessuno sa cantare, sono come un uccellino, senti il brillo, senti il brillo, stanno a sentire queste note così basse che so fare, poi vado su, vado su, vado su. Brava, brava, come sono brava, brava, certo se qualcuno vuole proprio, proprio pignolare, forse qualche cosa non so fare, ma sicuramente sì, non può essere che una cosa che non ha nessun valore se vogliamo ricordare che come me nessuno sa cantare, sono come un uccellino, senti il brillo, vedi ricordate quelle note così basse che so fare, poi vado su, vado su. Sentite questo povero mio cuore che fa bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Brava, brava, brava, brava, brava. Ben arrivate a tutte, noi, perché siamo una marea stasera qua, e benvenute a una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Come vi ricordo tutte le volte, è una trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbico romano sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito. Vi ricordo, se volete contattarci, che potete scriverci a contatti@clrbp.it, visitare il nostro sito www.clrbp.it e attraverso il sito di Radio Onda Rossa www.ondarossa.info potete anche sentirci in diretta. Potete chiamarci presso il Centro Femminista Separatista al 06 6864 201. Ogni mercoledì dalle 20:30 in poi noi ci riuniamo e quindi lì ci trovate, ma il telefono è un telefono fax e segreteria telefonica, quindi se ci volete contattare ci potete contattare ovunque, comunque, quantunque, anche il martedì, perché il martedì siamo presso Radio Onda Rossa allo 06 49 17 50. Che altro dirvi? Ascoltateci e mandateci tutti i messaggi che volete, e i messaggi ce li potete mandare anche a partire da ora al cellulare 338 4146 682. Noi aspettiamo le vostre considerazioni sulla trasmissione di quest'oggi e quindi tutto quello che ci volete dire, ci volete inviare, per noi è straordinariamente ben accetto. Non scordatevi i trillini, perché vedrete che stasera avremo buona musica, almeno quelle le abbiamo scelte noi. Questa sera, io sono Ada, ciao, ciao a tutte. Questa sera è una serata eccezionale e particolare, perché con noi abbiamo Roberta Micheletto, che è una scrittrice che ha scritto Il futuro rubato, che partecipa con noi alla trasmissione, che dopo ve la faremo sentire, perché le faremo un sacco di domande. Allora, vogliamo leggere, cominciare a leggere già un pezzettino del suo libro? Ah, certo, allora. Si può rinunciare all'amore per il peso della responsabilità, per il freno delle convenzioni per eccesso di senso di colpa? Rischiando di capire, troppo tardi, che qualcuno, noi stesse, ci ha rubato il futuro, privandoci dell'occasione di tutta una vita? A meno che, quasi fuori tempo massimo, il coraggio non ci sproni a vincere la paura, cogliendo fino in fondo l'opportunità di amare. Ok, allora, benvenuta Roberta. Buonasera a tutte. Grazie. Grazie a voi. Sì. Sì, Roberta ha scelto un CD e vogliamo dire qual è? Tratto dall'album degli Acustimantico con la bellissima voce di Raffaella Misiti. Io ho scelto la canzone La bella stagione. Risiamo insieme. Allora, innanzitutto è arrivato un SMS che non possiamo fare a meno di dirvi, ed è: Caserta vi ascolta, continuate così. Compagne di Caserta, amiche, siamo felicissime di questo. E direi di partire tosto, siccome sono di madrelingua, me lo posso permettere, direi di partire tosto con l'intervista a Roberta. E intanto farci un po' i cavoli suoi e chiederle intanto da che cosa hai preso spunto per scrivere il tuo libro, Il futuro rubato. Ma Il futuro rubato in realtà è solamente un gioco, una cosa che è nata veramente per gioco. senza nessuna velleità, senza tra l'altro nessuna speranza all'inizio, perché in realtà io non volevo nemmeno mandarla a nessuna casa editrice. È stato così, un momento di bassa, come si dice, in cui ho cercato di scrivere qualcosa per ritirarmi su, e questo è il risultato. Ma di bassa in che senso? Ma diciamo che era un momento in cui le cose non andavano bene, l'amore non andava bene, il lavoro non andava bene forse in quel momento, e c'erano un po' di cose che non ingranavano, e quindi avevo veramente bisogno di qualcosa di nuovo, una spinta nuova che mi aiutasse a superare un momento un po' difficile, che e diciamo che la cosa è riuscita molto bene, mi sembra. Direi, perché se mi dici questo vuol dire che eri un po' triste? Eh sì, lo ero decisamente, insomma, sicuramente un punto, storie d'amore che finiscono lasciano sempre un pochino lo strascico, e bisogna trovare, riuscire a trovare un modo per venirne fuori, e stavolta dobbiamo dire che è stato egregio, perché non, dalle cose che hai scritto e da come le hai scritte, in questi quattro racconti non si sente che sei depressa, tutt'altro, anzi è gioioso, è molto gioioso. Era proprio il desiderio di venire fuori, okay. E venir fuori mi serviva di pensare a qualcosa di positivo. Molto bene, Roberta, e allora partiamo con una seconda domanda. Quali progetti ancora hai intorno a questa tua prima fatica? Beh, in questo momento sto proprio in settimana da tour da rockstar. Perfetto. Sabato sono al Circolo Mario Mieli qui a Roma, domenica sono alla Libreria Babele di Milano e sabato 28 sono alla Libreria delle Donne di Firenze. Ma senti, insomma, scusa, una vera scusa star. Lucilla, vogliamo ripetere l'appuntamento del Mario Mieli, magari dice a che ora è, così. Perfetto, magari, sì, è qui a Roma, amica, quindi vuole partecipare per a Mario Mieli in via Efeso 2 alle 18 di sabato 21. Bene. Benissimo, Roberta. E allora, intanto ricordiamo che il libro si intitola Il futuro rubato ed è detto Zoe. E invece, quali impegni hai per il futuro? Noi ti abbiamo già incontrato in un'altra occasione, hai presentato il libro da noi al Centro Femminista Separatista, e già in quell'occasione ti abbiamo chiesto, visto che hai quest'ottima vena, quanto è ancora vivace e quando ci delizierai con un altro libro. Beh, diciamo che per il prossimo libro ci sono ancora solamente delle idee, vanno ancora messe su carta e vanno ancora ben decise, e quindi diciamo non è proprio di prossima uscita, ecco, aspettiamo un pochino. E noi ti aspettiamo veramente, perché il libro lo consigliamo, sono quattro racconti più o meno brevi e che affrontano vari argomenti, dalla vita di coppia, dalla negazione della propria identità e dall'affermazione invece della propria identità, sono gioiosi e diciamo che affrontano un po' tutte quelle che possono essere le tematiche delle donne lesbiche, e ci abbiamo trovato molti spunti. Sei stata molto brava. Sì, ho cercato un po' di raccontare non esattamente le cose che mi sono successe, perché nulla che mi sia successo è nel libro, però diciamo che ci sono delle tematiche che sono generalizzate, delle situazioni che più o meno abbiamo vissuto tutti, certo, sono comuni, e quindi volevo scrivere delle cose che fossero possibili e volevo anche che fossero rosa. Questa era la sensazione che volevo. O come diciamo noi, viola. No, io credo che Roberta ha avuto la fortuna, diciamo, che questo vissuto che tu hai portato, cioè tu, quello che tu hai, l'ispirazione che ti è venuta da una storia infinita, non so, no? Hai avuto questa capacità di scrivere quello che tu sentivi, in modo tale che poi certe volte noi donne non siamo capaci, no, di portare fuori quello che veramente sentiamo dentro, per cui quello che tu hai scritto può essere poi utile veramente a tutte noi, perché poi ci si ritrova, diciamo, ma mi è successo pure a me così, no? Quindi dico, è una cosa bellissima per me che tu hai questa capacità di portare sulla carta quello, l'emozione che poi ti dà lo scrivere, no? Quello che tu vivi dentro di te, che non è così facilmente, non è una cosa a portata di tutte, quindi sicuramente chi lo legge poi si può ritrovare nel quello che scrivi. Ma io proprio in questo puntavo, cioè proprio che le persone che potevano eventualmente leggermi, anche se ripeto all'inizio diciamo la cosa doveva rimanere molto nel mio cassetto e basta, però alla fin fine questo era il risultato al quale uno vuole arrivare, vuole proprio arrivare alla gente e vuole che le persone si riconoscano e riuscire a condividere delle situazioni in qualche modo, raccontandole o sentendole o leggendole, è un modo comunque di condividere delle emozioni. Certo. Abbiamo trovato anche alcune cose, per esempio, molto tipiche della comunità, no? Della comunità di donne. Abbiamo trovato anche altre cose tipiche delle lesbiche che incontrano, diciamo così, l'etero e via discorrendo. Leggeremo poi dei pezzi che insieme a Roberta ci delizieremo un po'. Quello che ti volevamo chiedere intanto ancora è se puoi fornire dei consigli a chi volesse cimentarsi nella scrittura, nel senso non è che questa è una cosa facile, è una domanda un po', come si dice, trabocchetto un po', cioè per te com'è stato, no? E da parte nostra anche con un po' di invidia, perché tutto sommato ci piacerebbe avere questo dono, questa capacità di potersi raccontare o di poter raccontare e di avere questa possibilità di raggiungere molte donne raccontando delle cose che nascono anche dalle proprie esperienze, da un proprio modo di riconoscersi. Quello che io ti dissi anche l'altra volta è che io ci ho trovato una grande affermazione della propria identità, del sé, sì. E questa è stata una cosa per me straordinaria, piacevole, perché tantissime altre volte le donne magari tendono invece a non affermarsi, no? Le donne lesbiche, io dico. Sì, sì, no, ma quindi in questo senso puoi fornire? Ma, no, in realtà per me è stato abbastanza semplice scrivere. Ripeto, partivo già dal presupposto appunto che non volevo divulgare molto questa cosa, quindi è stato molto, molto semplice, nel senso non temevo giudizi. All'inizio era questa cosa di non temere i giudizi, quindi è molto più facile parlare in qualche modo non di se stessi ma come se si stesse parlando di se stessi. È molto più semplice se nessuno sta lì col dito puntato e tu non stai pensando chissà cosa penseranno di quello che sto dicendo, come lo sto dicendo. E penso che l'unico consiglio che si possa dare effettivamente è proprio quello di lasciarsi andare e scrivere quello che si pensa, che si sente. Grazie. Senti, l'ultima domanda e poi ma passiamo. Ma io ne vorrei fare una un brano musicale. Roberta. Ah, sì. Prima di passare al brano musicale, siccome sicuramente le amiche, le donne che ci ascoltano vogliono sapere qualcosa di più privato di Roberta, anche per sapere se possono sperare, volevo sapere se in questo momento lei ha un amore. Sì, in questo momento sì. Quindi, care donne, metteteci una lista d'attesa. Allora, qui siamo in lista d'attesa. In studio questa sera Ada, che avete sentito, Caterina, che sta facendo la tecnica, Monica, che è un'altra special guest, che stasera è venuta qui con noi ed è una nostra compagna del gruppo del CLR, e io che sono Lucilla. E rapidissimamente, un'ultima domanda e poi passiamo appunto al prossimo brano musicale. Che effetto fa stare sulla scena pubblica e quanta della tua visibilità devi spendere? Ma io praticamente sono diventata visibile anche nei pochi posti dove non lo ero dopo la pubblicazione del libro. Lo sapeva la mia famiglia, lo sapevano i miei amici più stretti e non me la sono sentita di non fare un po' di pubblicità a un libro anche sul lavoro, quindi a quel punto, anche se credo che ormai fosse tutto abbastanza chiaro, è diventato ufficiale, quindi okay. Non ho avuto problemi né a ritrovarmi in televisione, anche se solo su Gay TV, ed essere qui stasera in radio, insomma, quindi con nome, cognome, cioè, non è un problema. Credo che sia un fatto positivo, insomma, portare un nome, un cognome e una faccia. Sì, sì, per questo sì, mi sembra sì. E noi ti stimiamo anche per questo. Grazie. E adesso un bel pensiero stupendo. Fatti bravo. E tu? Trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Allora io vorrei chiedere a Roberta se ha un sogno nel cassetto. Sì, un sogno, cioè, grande, forse davvero di difficile realizzazione, ed è un film, una sceneggiatura per un film tratta da, chissà, uno di questi racconti o da altri che potrei scrivere in futuro. Bene, in bocca al lupo allora. Crepi. E allora procediamo con la lettura da un pezzo che ci leggerà Roberta, dal romanzo 2. Poi mi venne un'idea. Anna Maria, esclamai sorridente. Anna Maria? Cristina mi guardò con aria interrogativa. E chi è? Avevo quasi 18 anni quando vidi Anna Maria per la prima volta. Iniziai a raccontare. Allora lei aveva già passato i 40 da un po', e per me fu, fin dal primo giorno, una mamma, una sorella maggiore, una confidente. A volte passano dei lunghissimi periodi senza che io mi faccia viva, ma ogni volta che la vedo sento che posso contare sulla sua spalla per piangere, su qualche parola di conforto e soprattutto su qualche utile consiglio. Il bello è che Anna Maria ha decine di sorelle minori da confortare e da consigliare, eppure trova sempre un minuto libero per tutte. Ora poi, che è andata in pensione, noi sorelline siamo la sua vita. Feci una piccola pausa, ma ripresi subito. Dove ero rimasta? Ah sì, quel primo giorno. Avevo letto l'indirizzo dell'associazione in una bacheca all'università, mentre accompagnavo un'amica che voleva incontrare un ragazzo che le piaceva. Invece a me i ragazzi non piacevano. Nella mia classe erano tutte innamorate dei componenti della squadra di pallavolo della scuola. Io, invece, sentivo battere il cuore quando riuscivo a vedere la ragazza con i capelli rossi della quinta B, e odiavo quel biondino brufoloso che veniva a prenderla all'uscita con un motorino scassato. Pensai che fosse un caso, che mi sarebbe passata. Ma poi notai la nuova commessa del negozio di abbigliamento sotto casa, e dopo di lei la nuova fidanzata di mio cugino, e poi la mia compagna al corso di inglese, e mai, dico mai, un ragazzo. Mi sentivo come un pesce fuori dall'acqua, l'unica diversa in un mondo di uguali, l'unica sbagliata in un mondo di giusti. Sapevo che non era così, che c'erano altre donne come me, ma non sapevo su quale pianeta sconosciuto fossero emigrate. Possibile che io non ne vedessi nemmeno una. Certo che neanche io andavo in giro con un cartello con su scritto lesbica. E poi un giorno il miracolo. Una ragazza che vedevo in palestra mi chiese se volevo andare ad ascoltare dei dischi a casa sua. Quando le sue labbra si posarono sulle mie, sentii il pavimento sparire sotto i piedi. E quando mi prese la mano per poggiarsela sul seno, pensai che al mondo non poteva esistere nulla di più bello. Purtroppo lei aveva un ragazzo ufficiale da parecchio tempo, e si divertiva anche a cambiare fidanzate spesso. Quindi, quando la storia finì, entrai nel panico. Ora sapevo esattamente ciò che volevo, ma non sapevo come fare per averlo. Quell'indirizzo nella bacheca fu la fine dei miei incubi, anche se in realtà passarono quasi una decina di giorni prima che trovassi il coraggio di usarlo. Non ero sicura che quello che desideravo fare fosse quello che dovevo fare. Mi sforzai e andai. Entrai nella sede dell'associazione e poi vidi una stanza con un cartello che mi indicava esattamente quel che cercavo. Dentro c'era Anna Maria, che leggeva un libro dietro un tavolo. Lei mi vide, mi sorrise e mi indicò la sedia di fronte a sé. Si presentò e la sua voce era calda e estremamente tranquilla. Io ero terrorizzata, nonostante lei facesse di tutto per farmi sentire a suo agio. E poi aggiunse che era sicura che se avevo varcato quella porta era perché avevo voglia di parlare con qualcuno che mi potesse comprendere. Allora iniziai a sciogliermi e le raccontai tutto. Mi ascoltò con calma, mi tranquillizzò e per la prima volta nella mia vita qualcuno mi fece pensare a me stessa usando parole come accettazione, orgoglio, diritti. Sono come sono, mi sta bene e anch'io ho diritto alla felicità e all'amore. Metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, nel paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari di un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. We'll be right back. da buoni consigli, sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente da buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglia, si prese la briga di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelli andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. E arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. E arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. C'erano tutti, dal commissario al sagrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, contessa ne parte la primavera. Un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il benefimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amore profano. Bene, avete sentito Bocca di Rosa, cantata da Anna Oxa, che insomma non è niente male. Allora, per dovere di cronaca, e voi sapete, noi siamo delle croniste, qui dobbiamo leggervi un messaggio che è arrivato, e una richiesta. Così recita: vorrei dedicare alla mia pupina la canzone Lei di Gianna Nannini. Grazie, Leli. Allora, cara Leli, non abbiamo Lei di Gianna Nannini, ma dopo sentirai altri due pezzi di Gianna Nannini e quindi ti invieremo quelli per la tua pupina. Altro messaggio che è arrivato invece è diretto a Roberta, e la richiesta per Roberta è questa. La domanda è: cosa ne pensi del separatismo? Se hai voglia di misurarti con questa domanda, se insomma. E poi se continuerai comunque quello che stai pensando di scrivere, le idee che hai, se sono comunque sempre cose che scriverai sulle lesbiche. Allora, per quello che riguarda la prima parte della domanda, devo dire che era una cosa alla quale io non ho mai pensato, nel senso che ho un grosso rispetto per le scelte, e soprattutto devo dire che quando mi trovo da sola solo fra donne mi trovo benissimo. Però sinceramente ho sempre fatto attività politica sempre insieme anche agli uomini, quindi faccio fatica a pensare di farla da sola. Per quello che riguarda invece la seconda parte, invece non lo so, sì, diciamo che le idee che ci sono adesso in testa sono comunque legate a racconti lesbici, ed è quello che sento più vicino a me e che quindi mi viene più spontaneo pensare, e però non posso precludere tutto nel futuro, insomma, potrei fare di tutto. Non pensavo nemmeno di fare un libro un anno fa, quindi figuriamoci. Bene, queste domande sono venute da Annalisa, e se vi va, anzi noi vorremmo procedere ancora, continueremo con un altro pezzo scritto da Roberta, sempre dal romanzo 2, dal racconto, scusate, 2. Si tolse la giacca, la buttò sul divano e senza sedersi mi attaccò. Si può sapere a che gioco stai giocando? Che intenzioni hai? Vuoi lasciarmi o cosa? Lasciarti? Io? Ma è l'ultima cosa al mondo. E allora, cos'è sta storia che non possiamo vederci perché devi lavorare? Mi sentivo alle corde, ma non volevo ammettere l'esistenza di un piano. Ma è vero, devo lavorare. Già, come se fosse la prima volta. Quante volte è già successo che avevi da lavorare e io sono venuta qui e abbiamo comunque cenato e dormito insieme? Queste sono cose che fanno le persone che vivono insieme. Riportai il discorso sul suo vero terreno. Ah, ecco dove volevi andare a parare. Non ho chiesto la luna. Perché devi ricominciare a fare la ragazzina capricciosa? Ti rendi conto che io ho stravolto la mia vita e le mie convenzioni per te? Mento alla mia famiglia, non vedo quasi più i miei amici. In ufficio hanno capito tutti che sono innamorata. Ma siccome non ne parlo mai, hanno deciso che me la faccio con un uomo sposato e pensano che sia una troietta rovina famiglie. Sopporto comunque tutto questo, però ti faccio presente una difficoltà e tu ti metti a fare i dispetti. Non faccio i dispetti, parlo del nostro futuro. Se fossi stato un uomo, avrei chiesto di sposarti e tu mi avresti buttato le braccia al collo. È colpa mia se non posso farlo. È colpa mia se in questo cazzo di paese non c'è una legge che mi permetta di sposarti. E allora, è colpa mia se ci sono difficoltà con la gente che abbiamo intorno? Sì. Si fermò un attimo a guardarmi, prese la giacca dal divano e fece per uscire. Vaffanculo. Stava iniziando a piangere. Mi parai davanti a lei e le impedì di avvicinarsi alla porta. Voglio dire che non è una colpa, è una scelta. È una tua scelta e la rispetto. L'ho sempre fatto. Non ti ho mai detto vai da tuo padre e digli che stai con me perché io voglio venire a cena a casa dei tuoi e sbaciucchiarti davanti a tutti. Tu allora non lo vuoi dire? Ok, mi sta benissimo. Io sto parlando di noi. Sto parlando della nostra vita, del nostro futuro. Io ti voglio talmente bene che voglio costruire la mia vita con te, che voglio porre le basi per tutti i progetti che potremmo avere insieme domani e dopodomani. Se la presenza della tua famiglia significa che non possiamo costruire delle cose solo per noi, a cominciare da una casa, significa che questo rapporto rischia di non crescere più. La tua famiglia esisterà sempre, fra 100 anni moriranno i tuoi genitori, ma poi ci saranno ancora i tuoi fratelli, i tuoi nipoti. E noi? Noi ci saremo mai? Rimase immobile e abbassò lo sguardo. In fondo per gli altri non cambierebbe nulla, proseguì. Si tratta solo di raccontare una cazzata credibilissima. Davanti ai soldi nessuno ti chiederà ulteriori spiegazioni. Dovresti dire che così spenderesti molto di meno, mantenendo la comodità di avere un'abitazione vicinissima al lavoro. In questa casa esistono 2 camere da letto e quindi sarebbe più che verosimile che noi si divida l'appartamento e tutte le spese. Mi fermai in attesa di una sua reazione, che non venne. Non credi che sarebbe possibile? Le chiesi. Non lo so. Capì che era frastornata, in difficoltà e non poteva vederla così. Lo sai che ti voglio bene, vero? L'abbracciai cercando di tranquillizzarla e usai il tono più tenero possibile. Ti voglio bene e voglio stare con te. Dopo qualche secondo abbandonò il mio abbraccio e poi mi diede un bacio sulle labbra. Anch'io, disse. Ora però lasciami andare a casa. Mi diede un altro piccolo bacio e uscì. È arrivato un altro messaggio che così recita: ciao, sono Maurizio e vi sto ascoltando insieme alla mia amica Martina. Siete fortissime, metteteci Janis Joplin, ciao, un abbraccio. Ebbene, Janis Joplin lo metteremo nel quarto d'ora, ce l'abbiamo, ciao. Andiamo con un altro pezzo tratto da un altro racconto, sempre del futuro rubato, e il racconto è Le commesse. Poi la commessa, scusate. Poi su questo racconto ovviamente si è sviluppata una certa bagarre, va bene? A quel punto mollai tutti i freni che mi avevano trattenuto fino a quel momento. La guardai negli occhi e mi sembrò di trovarvi un cenno d'intesa. Le afferrai la mano posata sulle mie mutandine e la feci scendere solo di poco e iniziai a toccarmi usando le sue dita. Dopo qualche secondo lasciai che iniziasse a seguire un suo ritmo e le presi l'altra mano appoggiandola sul mio seno. Mi assecondò solo per un attimo perché preferì spostarla sotto la maglietta e a quel punto decisi di sfilarmi direttamente. Iniziò a spingermi verso la poltroncina e mi fece sedere proprio sulla punta. Provai a sbottonare la sua camicetta ma me lo impedì. Era lei che stava guidando il gioco. E qualche volta è bello anche lasciarsi guidare. Perfetto. E poi la domanda da fare a Roberta la rimanderemo a dopo. Sentite un altro pezzo. Stavo cercando di riordinare le idee quando si spostò esattamente dietro di me, senza staccarsi di un millimetro dal mio corpo, e mi infilò le mani nelle tasche dei pantaloni per sistemare la stoffa. Questo movimento fu molto, molto lento. Avere le sue mani dentro le tasche mi provocò un brivido irrefrenabile e a quel punto dovette risultare evidente anche a lei. Non portavo il reggiseno e la maglietta aderente che indossavo lasciò che chiaramente intravedere i capezzoli che si indurivano. Mi sentivo un po' in imbarazzo, ma poco alla volta cominciai a pensare che i suoi movimenti non fossero poi così ingenui e casuali. Disperso il cuore, come hai fatto tu? Disperso il cuore. Allora, spero dai trillini che abbiamo visto e dai numerosi messaggi che ci avete inviato, abbiamo capito che avete accolto positivamente questa nostra ospite, questa nostra ospite speciale. E quindi noi, insieme a voi, a questo punto, vogliamo ringraziare Roberta per essere stata qui con noi. Grazie ancora, grazie per aver scritto questo libro, grazie per averci, insomma, aiutato in questo difficile cammino, che è comune a tutte. Grazie a voi di avermi ospitato, di avermi dato anche l'opportunità di parlare di questo libro e dei miei sogni. È stato un privilegio avere qui Roberta stasera. Esatto, lo è stato per tutte. Grazie. Grazie. Gli appuntamenti. Allora, gli appuntamenti, vi ricordiamo che venerdì prossimo, 20 febbraio alle ore 16, presso la Casa Internazionale delle Donne in Roma e in via San Francesco di Sales e in via della Lungara, i due ingressi, ci sarà l'incontro con la giurista iraniana Shirin Ebadi, premio Nobel per la pace. Quindi Shirin Ebadi incontra le donne romane e interverranno per questa occasione Francesca Brezzi, Costanza Fanelli, Mariella Gramaglia, Gabriella Bonacchi, Silvia Costa, Nadia Pizzuti e Bianca Pomeranzi. E chi è interessata a trovarsi con una personalità di questo genere che vive in questo momento una realtà di guerra e una realtà di occupazione così imponente, la può incontrare, e credo che sia un'occasione, crediamo tutte che sia un'occasione unica. Già è stata data la notizia del convegno che si terrà a Milano con la sede del GLO, cioè del Gruppo di Liberazione Omosessuale. Il convegno si intitola Potere è Volere e sarà a Milano prossimamente, cioè dal 27 al 29 di febbraio 2003, organizzato da Arcilesbica Zami Milano. E per chi è interessato può telefonare allo 02 2901 40 27 il martedì dalle 21 alle 23, oppure sul cellulare 339 53 52 415, oppure 339 57 65 311. L'email è milano@arcilesbica.it. Volevo precisare che Lucilla, presa dalla foga della guerra, ha detto che Shirin Ebadi fa parte è una giurista iraniana, quindi no, l'Iraq, perché siamo prese per le donne che sono state invase dalla cosa che noi è stato un lapsus, proprio perché sentito contro la guerra che c'è in Iraq, quindi scusiamo Lucilla con molta simpatia. Grazie. E grazie per l'errata corrige immediata di Ada, che è più sveglia di me. E invece una notizia che riguarda l'Iraq, ed era per quello, ero concentrata su quella, ve la dobbiamo leggere, ed è questa: Iraq, Sharia, una minaccia per le donne. Le donne irachene, segnate dalla violenza, dalla disoccupazione e dalla crisi conseguente all'occupazione militare del loro paese, devono oggi affrontare una nuova sfida. Il Consiglio Iracheno, IGC, ha votato il tuo sorriso, ogni lacrima che solca il tuo viso, che ti basta pure una parola per non sentirti sola. E quando farà giorno partirà una nave che non fa ritorno, che si ferma in ogni porto di mare, poi riparte veloce senza... dietro la sua scia, il volo degli uccelli e la malinconia, l'odore del sale, gli occhi di qualcuno perduto in fondo al mare. Thank you. tu sorella, e tu sorella canta, canta bene, e canta ma... Buona serata a tutte, a tutte le persone che ci hanno ascoltato, a tutte le donne, a tutte le lesbiche. Appuntamento a martedì prossimo. Questa trasmissione, come ben sapete, andrà in replica, ammesso che sia venuta bene la registrazione. E vi ricordiamo che tutti i messaggi che ci avete mandato cercheremo di metterli sul sito, e quindi li mettiamo sul sito, e quindi andranno via internet e vi li ritroverete tutti. Sono arrivati molti, grazie, non ce la facciamo a leggerli perché la trasmissione è stata molto impegnativa. Vi diciamo anche che sono arrivati tanti trillini e ci fa piacere. Grazie per la compagnia. Grazie ancora da Ada. Grazie per la compagnia a tutte. Io ho detto Ada, tu devi dire? Io ho detto grazie da Ada e tu devi dire? Grazie Lucilla. Grazie da Lucilla. Roberta si presenta da sola. Grazie a tutte, ciao. E la nostra ciao, fonica, Caterina. E la nostra e fonica, avevamo anche, grazie. Avevamo anche un'amica che stava seduta qui, Monica. Che ciao a tutte. E vai, anche Monica ha prestato la sua The Voice. E ancora grazie anche a Caterina che ci ha assistito in regia. Alla prossima volta. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.